Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari ascoltatori, a tutti l'augurio di una buona serata. Dovunque voi vi troviate in questo momento, chi nelle proprie case, chi magari ancora al mare o chi ancora al buon fresco di montagna. A tutti un caro saluto e invoco su ciascuno di voi, anche su di me, che mi trovo a spezzare la parola di Dio a questi microfoni, il dono dello Spirito, perché questo appuntamento sappia andare al di là dei nostri limiti per arricchire questa nostra conversazione. Come sapete, questo nostro appuntamento ha come obiettivo quello di farci scavare all'interno del Vangelo di Marco. Lo stiamo leggendo tutto dall'inizio alla fine in questo percorso di lezio continua. E in questa nostra lettura stiamo cercando di capire da un lato la dinamica della narrazione di Marco, quindi vedere come i singoli episodi non sono messi a caso all'interno del Vangelo, ma sono inseriti in un piano, in un disegno che ha degli obiettivi ben precisi, che via via stiamo scoprendo. Una seconda finalità del nostro percorso è quello di scoprire quanto la parola di Dio, in questo caso il Vangelo di Marco, abbia da dire alla nostra vita oggi, quanto è attuale il suo messaggio. E oggi vedremo che questo messaggio si rivela di particolare intensità e forza per quando si tratta di fotografare le nostre comunità ecclesiali. Oggi il tema sarà proprio quello del nostro modo di vivere la comunità, di concepire la comunità. Una terza finalità è quella di dare particolare risalto ad alcune espressioni del testo che magari una traduzione da sola non riesce a leggere. Ecco perché a volte nel nostro percorso noi tendiamo a mettere a confronto traduzioni diverse del testo, proprio per far emergere come l'una o l'altra sfumatura possono essere rese da traduzioni diverse. Bene, detto questo, torniamo all'interno della narrazione di Marco. Stiamo leggendo la sezione delle controversie di Gesù con le autorità religiose. Siamo praticamente alla fine del capitolo 12 e questa sera lo concluderemo. Questa sezione si era aperta nell'ambito del Tempio di Gerusalemme con le autorità religiose che si sono presentate a Gesù subito dopo la cosiddetta purificazione del Tempio, chiedendogli: bene, con quale autorità tu stai facendo queste cose? Chi ti ha dato l'autorità di farle? Questa era la prima sfida che gli scribi avevano posto nei confronti di Gesù. Gesù non aveva risposto a questa sfida se non in modo indiretto attraverso la parabola dei vignaioli omicidi, attraverso un'altra domanda che aveva posto lui stesso, cioè aveva chiesto: il battesimo di Giovanni veniva dal cielo o dagli uomini? Rispondetemi. E siccome non aveva ricevuto risposta, aveva reagito proclamando la famosa parabola dei vignaioli omicidi. Dopo questa prima sfida da parte delle autorità religiose, ne era seguita una seconda, dove si erano fatti avanti i farisei e gli erodiani e avevano posto a Gesù questa domanda: Maestro, sappiamo che sei veritiero, che non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno, ma insegni la via di Dio secondo verità. È lecito o no pagare il tributo a Cesare? Lo dobbiamo pagare oppure no? Anche in questo secondo caso Gesù aveva risposto alle autorità religiose in modo indiretto, si era fatto portare una moneta, aveva invitato a guardare l'effigie che era sulla moneta e poi aveva risposto dicendo: date a Cesare quello che è di Cesare, cioè quello che porta la sua effigie, quindi le monete datele pure a lui, ma restituite a Dio quello che porta l'effigie di Dio, e l'effigie di Dio la portano tutti gli uomini. Quindi era un invito all'osservanza delle leggi dello Stato, mantenendo però la profonda libertà che viene dalla dignità di essere figli di Dio. Ovviamente gli erodiani e i farisei se ne erano tornati alle loro case con le pile nel sacco, volevano far cadere Gesù in un tranello e invece Gesù si era dimostrato nettamente superiore alla loro sfida. Dopo questo secondo interrogativo è un terzo gruppo che si fa avanti e si fa presente a Gesù ed è il gruppo dei Sadducei, che pose al maestro la questione della risurrezione e allora portano il caso di quella donna a cui muore subito un marito, poi va in sposa ai fratelli del marito, fino a che dopo essere stata data in moglie a 7 persone, muore anche lei. E allora, irridendo la fede nella risurrezione, i Sadducei chiedono a Gesù, ma di chi costei alla fine sarà moglie, visto che è passata da un marito all'altro? Anche in questo caso Gesù smonta la domanda che fanno i Sadducei, spiega loro come il matrimonio in questione riguardava solo il primo marito e soprattutto ribadisce che la fede in Dio non può non contemplare il credo nella risurrezione, perché non contemplare la risurrezione significa chiudere Dio nella morte, mentre Dio è il Dio dei vivi e non il Dio dei morti. Sconfitti su questo piano strategico anche i Sadducei, l'ultima figura che si era fatta avanti era quella di uno scriba, quindi tornano in scena le figure di partenza. Uno scriba che presentando a Gesù il dibattito dei contemporanei sul comandamento più grande, gli fa una domanda e gli dice qual è il primo di tutti i comandamenti. E Gesù risponde richiamando lo Shema Israel da un lato e il doppio comandamento a Dio e al prossimo che veniva consegnato dalla tradizione ebraica. Ecco, in questo modo Gesù praticamente è stato sfidato da tutte le autorità religiose del tempo, gli scribi che erano praticamente gli interpreti autorevoli, riconosciuti della legge, i farisei che erano invece gli esperti osservanti della legge, riconosciuti come i pii, coloro che non lasciavano cadere nemmeno uno iota dalla legge, gli erodiani che rappresentavano invece la classe più legata al potere politico, quindi al potere di Erode o delle classi imperiali, e infine i sadducei che erano le classi sacerdotali. Tutte le autorità religiose che avevano una certa influenza sul popolo si sono presentate a Gesù. Dopo che sono passate tutte in rassegna, ecco il brano su cui ci fermiamo stasera. Gesù stesso prende la parola e sfida queste autorità religiose, rispondendo alla domanda di partenza, cioè ribadendo qual è la sua autorità e quale di riflesso è l'autorità degli scribi. Allora, leggiamo il primo testo su cui ci vogliamo soffermare, dove Gesù interpella, dopo essere stato lui interpellato 4 volte, Gesù interpella lui stesso di persona gli scribi. Siamo ai versetti 35-37 del capitolo 12 di Marco. Chi ha la possibilità di farlo lo invito a prendere in mano la Bibbia in modo da ripercorrerla insieme. Insegnando nel Tempio, Gesù diceva: come mai gli scribi dicono che il Cristo è figlio di Davide? Non ha forse detto Davide, mosso dallo Spirito Santo, disse il Signore al mio Signore: siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici sotto i tuoi piedi? Davide stesso lo chiama Signore. Da dove risulta che è suo figlio? E la folla numerosa lo ascoltava volentieri. Allora, sembra una domanda astratta, nel senso che Gesù interroga coloro che ascoltano sulla questione messianica, cioè come mai gli scribi dicono che il Cristo, cioè il Messia, deve essere figlio di Davide. Però non è una questione astratta, perché in base all'attesa noi configuriamo la nostra vita. Se voi ci pensate un attimino, la nostra vita, il nostro presente, si configura sempre attorno ad alcune attese. Noi aspettiamo sempre qualcosa, fin da quando ci svegliamo al mattino. Noi ci svegliamo al mattino aspettandoci già qualcosa. possono essere dei progetti, può essere un piano di lavoro che caratterizza il nostro lavoro, può avere a che fare con il mondo relazionale. Pensate a due persone che si vogliono bene, il primo pensiero al mattino, alla sera è sempre quello rivolto all'amato o all'amata. Pensiamo al rapporto tra i genitori e i figli, i genitori spesso si aspettano qualcosa dai figli, i figli magari si aspettano qualche permesso in più dai genitori, insomma noi costruiamo il nostro presente a partire da un'attesa nel futuro, però se questa attesa è sbagliata anche il nostro modo di declinare noi stessi è sbagliato. Ecco allora che la domanda che Gesù fa sul Messia è importante, perché in base a come uno attendeva il Messia, ovviamente a questa attesa era associata un'idea di Dio. Quando Gesù dice, ma perché gli scribi dicono che il Messia è figlio di Davide, lui sta in qualche modo frantumando l'autorità di cui questi scribi che lo hanno sfidato vantano nei confronti del popolo. Sta in altre parole dicendo che l'insegnamento che proviene dalle autorità religiose del suo tempo va preso con le pinze, perché rischiano di portare un'immagine sbagliata di Dio. E allora questa immagine sbagliata va presa con le pinze, con attenzione, va sottoposta a uno sguardo critico. Questo ci obbliga a fare un attimo un percorso su quelle che erano le attese messianiche del primo secolo. Ecco, nel primo secolo noi possiamo, in modo molto semplicistico se volete, ma in modo molto concreto, ipotizzare l'attesa religiosa del Messia attorno a cinque modelli essenziali. Il primo modello è quello che viene qui presentato in questa pagina e attribuito agli scribi. Il primo modello è quello che attendeva il Messia come nuovo Davide. Ovviamente tale visione messianica era legata alla parte politica, cioè Davide è stato re, un re ovviamente unto dal Signore, però l'attesa di un Messia con un nuovo re aveva ovviamente come obiettivo quello di dare al regno di Israele una forza maggiore rispetto a quella che aveva nei confronti dei romani, riunificare tutte le correnti che creavano separazione all'interno del gruppo. Noi oggi conosciamo essenzialmente la corrente dei farisei, dei sadducei, degli esseni, ma erano molteplici le correnti in cui si frantumava il giudaismo del primo secolo, quindi si sentiva il bisogno di una certa unità e nello stesso tempo si aspettava la cacciata dell'occupazione romana, proprio come Davide aveva a lungo combattuto per abbattere i nemici, pensiamo anche solo ai Filistei e a tutti quei popoli che in qualche modo minacciavano il popolo di Israele. Quindi il nuovo Davide era attendere un nuovo Davide, significava attendere un Messia di carattere politico. Ovviamente per arrivare a questo tipo di attesa non ci si basava su nulla, ci si basava su alcuni testi, e uno dei testi di riferimento era il capitolo 2, il secondo libro di Samuele al capitolo 7, nei versetti 10, dal versetto 10 in poi, 10-16, così noi troviamo scritto nel secondo libro di Samuele, capitolo 7. Fisserò un luogo per Israele mio popolo, ve lo pianterò perché vi abiti e non tema più i suoi nemici. Come dal giorno in cui avevo stabilito dei giudici sul mio popolo Israele. Ti darò riposo da tutti i tuoi nemici. Qua è il Signore che parla a Davide. Il Signore ti annuncia che farà a te una casa. Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu dormirai con i tuoi padri, io susciterò un tuo discendente dopo di te, uscito dalle tue viscere, e renderò stabile il suo regno. Egli edificherà una casa al mio nome, e io renderò stabile il trono del tuo regno per sempre, io sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio. Ovviamente questi versetti vengono riletti dalle autorità religiose non solo come un riferimento al figlio fisico di Davide, cioè Salomone, che costruì effettivamente il Tempio, ma vengono proiettati anche sul futuro, nell'attesa di un discendente messianico. Ora, Gesù si oppone a questa attesa dicendo, no, non deve essere fisicamente un discendente di Davide, perché lo stesso Davide in un salmo, e qua viene citato il Salmo 110, si rivolge a Dio così, dice: il Signore, al mio Signore, siedi alla mia destra, finché io ponga i tuoi nemici sotto i tuoi piedi. Quindi, se Davide dice, se Davide rivolgendosi, pensando a Dio, vede Dio rivolgersi al suo Signore perché vengano messe le cose sotto i suoi piedi, come può essere suo figlio? Lo chiama suo Signore, come può essere suo figlio? Ecco allora che Gesù, polemizzando contro questa prima attesa messianica, cerca di strappare la visione del Messia ad una lettura puramente politica. Il Messia non può essere un uomo esclusivamente dedito alla politica, è un uomo fortemente segnato dall'impronta di Dio, fortemente segnato da una vocazione divina. Oltre a questa attesa messianica, ce n'erano altre diffuse nel primo secolo. Un'altra attesa legata al primo secolo era quella che attendeva il nuovo Aronne. Aronne, lo sappiamo, era la figura sacerdotale per eccellenza che aveva accompagnato il popolo durante l'esodo accanto a Mosè, e di forte impronta sacerdotale tale attesa aveva di mira il Tempio e le sue istituzioni, colpevoli nel primo secolo di essersi annacquate, se non del tutto politicizzate. Teniamo presente che nel primo secolo, ad esempio, la carica del sommo sacerdozio era un pochino comprata da quelle che erano i casati religiosi più potenti. Quelli che erano più potenti, che potevano interagire a braccetto con il potere politico, ricevevano il sommo sacerdozio. E abbiamo documentazione che c'è stato un periodo tra il primo secolo avanti Cristo e il primo secolo dopo Cristo, dove si sono susseguite deposizioni e istituzioni di capi di sacerdoti in base al potere politico di turno e alla classe e al casato dominante. Ovviamente questo aveva suscitato lo scandalo in alcuni gruppi interni al giudaismo che avevano preso le distanze dal Tempio e aspettavano quindi che il Messia fosse un nuovo sacerdote, un nuovo Aronne, che avrebbe istituito il nuovo Tempio. Raramente Gesù fa riferimento a questo tipo di attesa messianica. Certo è che la sua posizione nei confronti del Tempio, in parte polemica, sembra dar adito ad alcuni tratti a questa attesa messianica. Teniamo però presente che Gesù relativizza tutte queste attese messianiche, preferendo, come vedremo, un'attesa ben precisa. Altro tipo di attesa, la terza, è quella che si sviluppa in alcuni ambiti del fariseismo e che vedeva nel Messia colui che avrebbe ristabilito la legge portando alla sua piena osservanza e instaurando un regno segnato dalla pace, dal primato di Dio, dall'attenzione dell'altro. E allora qui capiamo, questa attesa era diffusa soprattutto tra gli scribi, e allora qui capiamo la domanda che lo scriba gli ha fatto: qual è il comandamento più importante di tutti, dove vengono richiamati i due comandamenti che questo nuovo Messia avrebbe dovuto stabilire, cioè il primato dell'amore di Dio e il primato dell'attenzione al prossimo. Ora, nell'ambito di questa attesa messianica è nota la famosa storiella secondo la quale un uomo si recava tutte le mattine alla finestra di un grande rabbi del suo paese, della sua città, chiedendogli: è arrivato il Messia? E il rabbi, affacciandosi alla finestra e indicandogli di volta in volta un luogo diverso, rispondeva dicendo: cosa vedi? Facciamo per esempio al pozzo. E quell'uomo rispondeva: due donne che litigano, maestro. Bene, figliolo, rispondeva il rabbi, nemmeno oggi è arrivato il Messia, torna domani. Secondo questa visione, ovviamente, il Messia sarebbe stato l'uomo che avrebbe portato la legge piena sulla terra. Anche da questa visione Gesù si distacca, perché se da un lato sottolinea che non c'è iota né comandamento all'interno della legge che possano sfuggire all'attenzione di Dio, dall'altro sottolinea che il volto di Dio è quella del Dio con noi, cioè quella di un Dio che cammina con il suo popolo anche quando questo popolo è segnato dalla incorrispondenza e dalla infedeltà. Una quarta accezione dell'attesa messianica era quella del che attendeva il Messia come nuovo Giuseppe, dove ovviamente per Giuseppe si intende il figlio prediletto di Giacobbe, quello che era stato venduto all'Egitto e che in tempi di carestia in terra d'esilio era diventato non solo principio di unità per i suoi fratelli, ma anche garanzia di assistenza e segno della provvidenza in un tempo davvero difficile. Forse Israele nel primo secolo, esposto alla tassazione romana e frantumato in molte correnti non sempre in accordo tra loro, si sentiva nella necessità di avere un punto di riferimento così. Tra i Vangeli quello che si fa portavoce più di altri di questa attesa messianica è il Vangelo di Giovanni. Nel Vangelo di Giovanni Gesù non a caso viene più volte qualificato come il figlio di Giuseppe e la sua figura, il suo profilo viene delineato sullo sfondo di alcune scene che richiamano questa figura. Pensate ad esempio alla scena delle nozze di Cana, quando Maria dice ai servi fate quello che lui vi dirà. È una frase che richiama palesemente la frase del faraone all'epoca di Giuseppe il patriarca, quando dice ai servi fate quello che lui dirà per affrontare la carestia. Oppure la scena della moltiplicazione dei pani in Giovanni sembra essere ricalcata sulla scena dell'incontro tra Giuseppe e i suoi fratelli nel contesto della carestia d'Egitto, quando Giacobbe, loro padre, li manda a prendere provviste in Egitto. Quindi tutta una serie di episodi che in qualche modo richiamano questa attesa messianica. Ultima attesa, il quinto modello, che è solo associata al Messia, solo associata, non fa riferimento al Messia in senso stretto, è quella del nuovo Elia. È un modello questo che si sviluppa soprattutto nella tradizione profetica e che vede come figura di riferimento, come profeta di riferimento, Malachia. Se voi andate a vedere, Malachia, conclusione del suo libro, del suo piccolo libro, annuncia l'arrivo di un nuovo Elia che porterà le generazioni a dialogare tra di loro, il cuore dei padri verso i figli, il cuore dei figli verso i padri, e il tutto accompagnato dall'inaugurazione di un regno stabile e duraturo. Questo nuovo Elia viene però enunciato da Malachia non come il Messia, negli altri casi erano tutte figure messianiche vere e proprie, ma come colui che anticipa la sua venuta. Ora sappiamo nel Vangelo di Marco questa prefigurazione di Malachia viene spesso identificata con Giovanni Battista, cioè Giovanni Battista sarebbe il nuovo Elia annunciato da Malachia che prepara l'arrivo del Cristo, che prepara l'arrivo del Messia. Ecco, abbiamo fatto una carrellata generale tra l'uno e l'altra tipologia di attesa messianica, una carrellata che ha come obiettivo questo, cioè queste erano le tipologie di attese del primo secolo. Ora Gesù prende da ognuna di queste tipologie alcuni aspetti, sentendoli applicati a sé, però non si identifica con nessuna di esse. Perché non si identifica con nessuna di esse? Perché tutte queste categorie rischiano troppo di essere inglobate in una o imprigionate in una visione esclusivamente orizzontale, esclusivamente umana. Per cui il nuovo Davide rischia di dare una lettura troppo politica, il nuovo Aronne una lettura troppo sacerdotale, il nuovo maestro di giustizia legato alla legge una figura troppo legalista, il nuovo Giuseppe una figura troppo sociale. Tutte rischiano di perdere la dimensione orizzontale, dove il Messia è in qualche modo il depositario e il volto di Dio sulla terra, il volto di Dio sulla terra. Ecco perché Gesù a tutte queste attese messianiche ne preferirà un'altra, che è quella del figlio dell'uomo. L'immagine del figlio dell'uomo, pur garantendo un forte radicamento alla terra, è il figlio dell'umanità, quindi nasce dall'umanità, respira con l'umanità, sente il dramma del peccato e della grazia di cui l'umanità è depositaria, però dall'altra parte rimanda alla figura di Daniele, quel figlio dell'uomo che viene sulle nubi e che appartiene a un mondo totalmente altro e che diventa l'icona visibile di Dio sulla terra. Ecco, su questo punto Gesù frantuma l'autorità degli scribi. Quello che Gesù sta dichiarando nei confronti degli scribi è che gli scribi mancano di verticalità, mentre tutte le altre attese messianiche sono caratterizzate da una forte accezione orizzontale, quindi gli scribi hanno questa qualifica, questa accezione li imprigiona in questo mondo, impedendo di avere una visione altra e quindi impedendo di mettersi all'interno della logica di Dio, una logica che supera sempre le nostre letture orizzontali. Quindi su questo punto Gesù smaschera l'autorità degli scribi, sottolineando che o ci si apre ad una dimensione verticale o si perde l'anima delle cose, l'essenza delle cose, ciò che può costruire una vita. In questo modo vengono rilette anche tutte le polemiche con cui Gesù è stato aggredito, la polemica nei confronti di Cesare e delle tasse, la polemica nei confronti della risurrezione, la polemica nei confronti del comandamento più grande. Le risposte che Gesù ha dato è possibile comprenderle solo nella misura in cui ci si apre ad una dimensione verticale, cioè ad una dimensione soprannaturale che assicura l'anima delle cose. Ecco, cari ascoltatori, fermiamoci alcuni istanti con un breve sottofondo musicale, in modo magari di rileggere, che voi abbiate modo di rileggere questi versetti, interiorizzarli, e poi continueremo nel nostro commento, commentando l'ultimo episodio che caratterizza il capitolo 12 e che chiude l'intera sezione. Vedremo come anche il brano, l'episodio che chiude l'intera sezione è particolarmente significativo, perché oppone gli scribi a un'altra figura che diventa un po' la figura modello da custodire nel cuore. Quindi un breve stacco musicale, dopodiché riprenderemo la nostra conversazione. Ecco, cari ascoltatori, riprendiamo ora il nostro testo, vedendo come il testo procede dopo questa riflessione sul messianismo nel primo secolo e l'autorità degli scribi. Leggiamo ora i versetti da 38 a 44. Diceva loro nel suo insegnamento: guardatevi dunque dagli scribi, perché amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nella sinagoga e i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna più severa. Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte. Ma venuta una vedova povera vi gettò due monetine che fanno un soldo. Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: in verità, io vi dico, questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Ecco, in questo episodio, che praticamente tira un po' le fila di quanto detto precedentemente, Gesù, dopo aver dimostrato che l'autorità degli scribi non si poggia su basi solide, perché danno una lettura totalmente erronea, totalmente parziale del messianismo, li smonta negli aspetti della loro vita, per cui mostra come da un punto di vista sociale sono figure sì di primo piano, ma autoreferenziate, amano i primi posti nei banchetti, sono figure di spicco in ambito religioso perché hanno i primi seggi nelle sinagoghe, sono figure di spicco in ambito politico e sociale, amano i saluti nelle piazze, Non parliamo poi della parte economica. Hanno così tanti soldi perché divorano le case delle vedove. Però tutto questo si regge su qualcosa di sbagliato. Da un lato quindi amano e desiderano tutto ciò che li mette in evidenza, dall'altro, in maniera nascosta e ambigua, profittano della loro posizione, trasformano la loro posizione in una posizione di vantaggio personale. Nella figura di alcuni di loro, teniamo presente che Gesù non sta parlando di tutti gli scribi, alla fine delle controversie Gesù aveva lodato uno di questi scribi dicendo non sei lontano dal regno di Dio, Quindi nella figura di alcuni di loro si profila a livello di narrazione marciana l'icona dell'antidiscepolo per eccellenza. A chi desidera seguire Gesù, Gesù propone gli ultimi posti. Gesù propone una logica di totale servizio e di totale dono. E questa logica viene subito, concretizzata nella figura alternativa. La figura alternativa è quella della vedova. E qua notiamo una cosa prima di tutto, cioè la vedova rappresenta proprio la figura che da tutti i punti di vista è opposta a quella degli scribi. Prima di tutto è una donna, gli scribi sono tutti uomini. Secondo, è povera, gli scribi sono ricchi, tra l'altro intascando soldi sfruttando le vedove. Terzo, è vedova, quindi ha bisogno di essere tutelata legalmente, non ha alcun influsso politico e sociale. È lungi in lei l'intenzione di attirare su di sé gli sguardi altrui, diversamente dagli scribi, che invece non solo non erano tutelati legalmente perché erano loro quelli che puntualizzavano gli aspetti della legge, ma avevano tutta una serie di rapporti politici e sociali che davano loro forza. Quindi questa vedova è quella che si pone in alternativa ai figli del regno, cioè di fronte agli scribi, rispetto agli scribi, è il modello vedova che diventa icona dei piccoli a cui appartiene il regno dei cieli. Ecco, questa vedova compie un gesto che può essere interpretato in modi diversi, cioè il gesto di questa vedova che getta nel tesoro del Tempio tutto ciò che lei ha può essere giudicato dai lettori in due modi diversi. Da un lato, noi ne possiamo evidenziare la generosità. Dall'altro però verrebbe anche da dire che questa vedova è da tutti i punti di vista sconsiderata, perché Gesù poco dopo dirà che di quel tempio nel cui tesoro questa donna mette tutta la propria vita e praticamente non resterà pietra su pietra. Quindi che ne sarà del dono che questa vedova fa di sé? Pensate che nel secondo secolo verrà noi abbiamo attestazione nel secondo secolo di questa norma, ma può essere precedente. Nel Talmud di Babilonia c'è una norma che impedisce alle persone di offrire più di un quinto dei propri beni al Signore quando ciò mette in pericolo la loro vita. Ora questa donna non dà un quinto, anche se aveva poche cose, però butta nel tesoro del Tempio tutto quello che aveva. E allora si nota tutto un gioco di contrasti che mette in evidenza il gesto della donna. Ai molti che gettano molte monete si oppone una sola donna, ai ricchi fa da contrasto la vedova, alle tante monete che questi gettano i suoi due spiccioli che fanno un solo soldo, al superfluo questa donna che dà tutto quello che aveva per vivere. Se noi dovessimo tradurre alla lettera la parte finale del versetto, in greco è olon ton bion, tutta la vita, cioè viene gettata come pegno nel tesoro del Tempio tutta la vita, in un gesto, dicevo, che sembra essere di profondo spreco. Tra l'altro è curioso anche nel testo greco l'uso dei verbi. Per descrivere i ricchi viene utilizzato l'imperfetto, che indica quasi la continuità del loro gesto, un gesto che fanno in continuazione, prolungato, ostentato, Per il gesto della vedova viene invece utilizzato l'auristo. L'auristo è un tempo verbale che è simile al nostro passato remoto, che indica un'azione puntuale, che nel momento in cui è fatta è già passata, è quasi un gesto frugale, nascosto, che indica anche qua qualcosa che vuole essere tenuto, che vuole essere tenuto così, riservato. Di fronte a questo gesto Gesù chiama i discepoli. Il verbo utilizzato per indicare la convocazione dei discepoli è proscaleo, chiamare vicino a sé, ed è un verbo che nel Vangelo di Marco ha particolare solennità, perché viene evocato dall'Evangelista in momenti chiave del racconto, cioè nei momenti in cui Gesù deve illustrare il mistero pasquale, quando annuncia la sua passione, morte e risurrezione e i discepoli fanno fatica a entrare in questa logica, Gesù li chiama, li convoca sempre a sé. E questo convocare a sé viene espresso attraverso il verbo proscaleo, che indica quindi la convocazione piena per un insegnamento molto importante. Nella logica narrativa del Vangelo di Marco, questa vedova anticipa il destino di Gesù, in opposizione agli scribi. Gli scribi sono l'antidiscepolo, dicevamo prima. La vedova è il discepolo per eccellenza, colei che fino in fondo incarna e anticipa il destino di Gesù. Gesù non vivrà altro che quello che la vedova sta facendo. Donerà totalmente se stesso, tutta la sua vita, gettandosi all'insegna dello spreco nelle mani di una comunità che lo rifiuta. Il tesoro del Tempio per lui, la cassa del tesoro del Tempio per lui è l'umanità, alla quale dona la vita in un momento in cui questa umanità non dà nessun segno per recepire la forza di questo significato, del significato di quel dono, di quel gesto. Ecco, allora capite bene come non solo Gesù smonta l'autorità degli scribi, ma al posto dell'autorità degli scribi impone una logica totalmente diversa, che è una logica di servizio e di dono, che va quindi ad associarsi con quella dimensione verticale di cui abbiamo parlato prima. Senza questa dimensione verticale, senza l'irruzione di Dio nella storia, l'uomo non è in grado di vivere un dono di questo tipo. Solo chi è profondamente segnato dalla presenza di Dio può arrivare a questo dono. Arriviamo adesso ad alcune conclusioni prima di lasciare la parola direttamente a voi ascoltatori. Dicevo che la puntata di questa sera con la lettura di questi brani ci avrebbe fatto riflettere sul volto della comunità cristiana. In altre parole, Gesù in questa sezione dedicata al confronto con le autorità religiose fa compiere ai suoi discepoli tutta una serie di passaggi, da una visione della comunità e del Tempio a un'altra visione. Allora io posso identifico così in modo sommario 5 di queste trasformazioni che possono anche diventare motivo di riflessione su come noi viviamo oggi la comunità, l'essere parte di una chiesa, di una comunità locale, di una comunità religiosa per chi vive in una comunità religiosa. Il primo passaggio è quello dal Tempio di pietre al corpo vivo della comunità. Gesù annuncia di fronte ai discepoli stupiti per la grandezza del Tempio che di quel Tempio non resterà pietra su pietra. Lui compie addirittura il gesto della purificazione, dicendo che coloro che seguono Dio alla fine per il modo in cui portano avanti il loro messaggio rischiano sempre non solo di essere rifiutati dal Tempio fisico, ma di essere addirittura uccisi fuori delle mura del Tempio, fuori dal recinto della vigna. Quindi dal Tempio di pietre si passa al corpo vivo della comunità, dove per corpo vivo della comunità si intende una serie di relazioni che sono animate dall'azione di Dio. Allora, è chiaro che questo fa riflettere, la nostra comunità cristiana non si concretizza perché c'è una chiesa fisica in cui noi una volta alla settimana ci troviamo. Questo luogo ha significato se accanto alle pietre fisiche ci sono delle pietre viventi che costituiscono un corpo ecclesiale, e le pietre viventi sono quell'insieme di relazioni che caratterizza i fedeli, le associazioni, il pastore e il suo gregge, coloro che svolgono dei ministeri, i servizi, tutti quegli elementi, quei volti, quelle sfumature che sono presenti nella comunità cristiana. Secondo aspetto, secondo passaggio che emerge da questa sezione è il passaggio dagli atti cultuali materiali alla memoria viva del risorto. A Gesù non interessa che le persone, che questi ricchi, molti, gettino nel tesoro del Tempio molte monete e facciano rumore e lo facciano in continuazione. Lui attira lo sguardo sulla disposizione che caratterizza quella povera vedova, e la disposizione è quella di donare tutto se stesso a immagine, prefigurando il mistero pasquale di Cristo che soffre, muore e risorge per il bene dell'umanità. E allora la Chiesa si può costruire non perché compie degli atti cultuali, non perché risponde a una legge, a una serie di comandamenti, ma perché dietro ogni atto cultuale c'è un'anima, c'è una dimensione che non è solo legata all'osservanza, ma a una logica di alleanza. Terzo passaggio, si passa dal centro unico fisico alla rete delle chiese domestiche. Marco si pone proprio nel crocevia del primo secolo, quando la comunità cristiana sta vivendo questo passaggio che non è senza sofferenze, cioè da una struttura che trova il suo punto fermo unico nel Tempio di Gerusalemme a una serie di tante piccole comunità cristiane che si basano su relazioni di altro tipo, perché sono relazioni tipiche delle chiese domestiche, e quindi su questo si arriva al quarto punto di trasformazione, dai centri piramidali, cioè da strutture dove tutto veniva deciso a partire da una piramide che vedeva i fedeli, all'interno dei fedeli c'erano poi i farisei, i sadducei, gli scribi, all'interno di questi c'era poi il responsabile della comunità con il capo della sinagoga e così via, ed erano questi che decidevano la vita della comunità, ad una visione diversa. Se la Chiesa passa da centro unico a una molteplicità di centri, questa molteplicità di centri e le case sono le relazioni interne alle case che diventano strutturanti la comunità cristiana, e le relazioni interne alle case sono in genere relazioni paritarie, tra marito e moglie, tra padri, tra genitori e figli, tra padrone e servo. Certo, ognuno ha una sua funzione, ognuno ha una sua identità, un suo ruolo, però lo scambio che viene a crearsi tra di loro è uno scambio che per tanti aspetti è paritario. Probabilmente Marco ha qui in testa anche l'immagine delle chiese fondate da Paolo, pensate a Filippi, una chiesa che fin dall'inizio si qualifica con due casati diversi, il casato di Lidia che si converte con tutta la sua famiglia e il casato del carceriere, un altro che si converte con tutta la sua famiglia, due volti di responsabili che nel mondo giudaico non avrebbero mai avuto un ruolo di responsabilità di comunità, né un carceriere, quindi né un signorotto romano, signorotto mica tanto, ma un ufficiale romano, né tantomeno una donna come Lidia. Infine abbiamo il quarto punto di passaggio, da luoghi di potere. Il rischio per il Tempio, per le sinagoghe, era che i servizi che si strutturavano attorno a questi centri religiosi fossero, in poche parole, dei luoghi di potere, dei luoghi dove chi esercitava la funzione sentiva di avere un'autorità sugli altri, a scuole di consegna di sé. Quindi questa consegna di sé è quella che viene fotografata dalla vedova, cioè da questa capacità di dare tutta la propria vita e di gettarla nel Tempio, indipendentemente dalla situazione del Tempio in quel momento, per un solo atto di fiducia e di piena consegna nelle mani di Dio. Ecco, capite voi bene che da questi cinque salti di qualità, dal Tempio di pietra al corpo vivo, dagli atti materiali alla memoria viva del risorto, dal centro unico fisico alla rete di chiese domestiche, dai centri piramidali alla relazione familiare, e dai luoghi di potere a scuole di consegna di sé, penso che da questi 5 passaggi le nostre comunità abbiano molto da imparare, perché il nostro rischio è sempre quello di tornare un pochino indietro. Ecco, cari ascoltatori, quello che ci comunica questa sezione del Vangelo di Marco. Ora, come al solito, lasciamo spazio ai vostri interventi, lascio a voi la parola, ricordandovi sempre che la ricchezza della nostra trasmissione non è legata solo a quello che posso dirvi io, ma è legato anche alle vostre domande, alle vostre considerazioni, che vengono condivise con tutti gli ascoltatori e che ci permettono di approfondire ulteriormente quanto ci siamo detti. Quindi lasciamo un nuovo stacco musicale in modo che ciascuno abbia possibilità di rileggere il testo e di formulare qualche domanda. Vi attendo e riprendiamo, ecco, il nostro discorso tra qualche istante. Pronto? Pronto, buonasera, con chi parlo? Ah, buonasera, sono Concetta d'Aosta. Senta, io volevo fare una domanda, anche se ho sentito solo l'ultima parte del suo insegnamento. Allora, nell'Antico Testamento, insomma, prima della venuta di Gesù, ogni buon ebreo doveva lasciare la decima al Tempio. Volevo sapere se nella cristianità è stato mai quantificato quanto un buon cristiano dovrebbe lasciare la Chiesa. Ecco, la ringrazio signora Francesca per questa sua domanda. Allora, non sono un esperto di storia del cristianesimo, quindi non sono in grado di rispondere con precisione a questa domanda. Mi sembra che l'invito alla decima in alcuni periodi della storia sia stato, cioè abbia caratterizzato la storia della Chiesa. Quanto poi, come poi questo venisse calcolato o quantificato, non glielo saprei dire. Nella tradizione spirituale invece c'è un'applicazione che ritroviamo soprattutto nei padri e nei grandi maestri di spiritualità, che sottolinea molto non tanto la consegna materiale di beni alla Chiesa o all'istituzione o al Tempio, ma quanto l'uomo deve dare a Dio. Si invita, i grandi padri dicevano che la proporzione proprio della decima è una proporzione che dovrebbe caratterizzare anche la vita spirituale dell'individuo, quindi la decima richiama quello spazio di preghiera quotidiano che ogni persona dovrebbe in qualche modo dare al buon Dio, uno spazio di preghiera che permette anche alla persona di ritrovare se stessa. La decima nel ritmo settimanale combacia con lo Shabbat, con il giorno di riposo, per noi il giorno della domenica. Nel mese corrisponde anche qua a un periodo più prolungato in cui ci si dedica a Dio. Durante l'anno corrisponde alla famosa esperienza diffusa ormai anche nelle comunità cristiane della settimana di esercizi spirituali. Quindi da un punto di vista spirituale la cosa è stata quantificata, se vuole, in questo modo, cercando di assicurare nei ritmi del tempo dell'uomo lo spazio riservato a Dio. Assicurare uno spazio riservato a Dio significa assicurare all'uomo l'anima della propria identità. Dal punto di vista invece materiale non saprei risponderle con precisione, quindi magari rimando alla volta prossima una risposta più precisa su questo aspetto, coinvolgendo magari qualche mio collega esperto di storia della Chiesa. La ringrazio, signora Francesca, per questa interessante domanda. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, padre Giacomo, sono Cristian di Perosa, Argentina. Avrei bisogno che spiegaste meglio, visto che sei stato anche 3 volte in Israele, eccetera, cosa si intende per morire fuori dalle mura. Va bene. L'ascolto per radio. La ringrazio Cristian, abbiamo un ascoltatore che viene dal Perù, quindi è un'altra terra che si affaccia su questa trasmissione e che ci ricorda quanto anche il nostro mondo sia ricco, no? di esperienze diverse. Grazie per essere intervenuto. Allora, la domanda riguarda il morire fuori delle mura. Nei tempi biblici, quindi sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento, lo spazio sacro di una città era lo spazio abitato da questa città e dal popolo di Israele. E in genere tutto era regolato da linee di demarcazione. Per cui la città aveva delle mura non solo per difendersi dai nemici esterni, ma anche per garantire un sistema di purità che assicurava al popolo, secondo le norme cultuali vigenti, di mantenersi nella giusta disposizione davanti a Dio. Uscire dalle mura significava entrare in uno spazio, se volete, sconsacrato. Quindi, quando una persona, un condannato a morte per un reato molto negativo, veniva appunto messo a morte, tale azione avveniva fuori dalle mura della città. Perché? Per dichiarare che quella persona era una persona che era totalmente sconsacrata, era totalmente fuori da ogni collegamento con Dio, per gli atti che aveva commesso, per le bestemmie che aveva detto, per cui veniva portata fuori della città, ammazzata fuori della città, e ulteriormente, per enfatizzare ancora di più questo, veniva in alcuni casi, in alcune pene, come la morte di croce, spogliata. Cioè lo strappare le vesti e il portare la persona fuori dalle mura della città significava privare questa persona di ogni dignità. Questa persona, priva del rapporto con Dio, fuori le mura della città, priva del rapporto con la società umana, della privazione delle vesti, non era più niente, non era più nessuno. Ecco allora che era il gesto di maledizione massima. Tra l'altro, la persona che moriva fuori dalla città in genere veniva lasciata così esposta dopo la morte, per cui su di lei si avventavano le bestie feroci o gli uccelli del cielo. E questo era un'ulteriore profanazione di una persona il cui corpo, le cui relazioni erano già profanate. Questa cosa si verificava anche in alcuni casi di malattie particolari. Pensate alla lebbra. Ovviamente le persone venivano mandate fuori dall'accampamento, dal paese, dalla città, non solo per un motivo di contagio, certo c'era il motivo di contagio che portava a questo, ma anche perché c'era una visione particolare della malattia, che vedeva in quella malattia una piaga mandata da Dio. Per cui una piaga mandata da Dio, la persona era considerata impura, allontanata, reietta. Da qui il ministero di Gesù. Il ministero di Gesù in che cosa consiste? Il ministero di Gesù consiste sempre nell'uscire fuori le mura della città per incontrare le persone. È interessante, chi lo precede, chi precede Gesù dove? Giovanni Battista, nel deserto, porta fuori le persone dalle mura della città, dimostrando che Dio li vuole incontrare lì, nel luogo impuro per eccellenza. Dio non ha paura dell'impurità dell'uomo, ma lo incontra e lo trasfigura. Ovviamente nel commento che abbiamo fatto oggi, dove abbiamo richiamato la parabola dei vignaioli omicidi, la descrizione del figlio che viene buttato fuori dalla città, ecco, indica proprio il rifiuto massimo a cui quei vignaioli potevano arrivare e prefigura la morte di Gesù. Gesù che muore in croce fuori dalle mura della città è il rifiuto massimo che una persona può subire, però non per questo lui toglie il dono di sé come la povera vedova, nonostante questo dà tutto. Quindi grazie Cristian per questa domanda che ci ha permesso di approfondire un altro aspetto della nostra trasmissione. Pronto? Pronto, buonasera, con chi parlo? Ah, sono Anna da Bologna, grazie per tutte le belle lezioni che ci ha fatto anche questa sera. Io volevo chiederle un consiglio, perché è un consiglio su dei pensieri che io ho sulla crocifissione, proprio perché diciamo Dio ha scelto per far morire Gesù proprio in quella maniera orribile che è appunto la crocifissione. Secondo me anche perché per essere corretto rispetto verso chi di noi potrebbe dirgli pretendi da noi il rispetto dei 10 comandamenti eccetera, ma non sai cosa vuol dire la vita umana. E quindi lui sceglie di mandare il suo figlio proprio perché noi non possiamo rinfacciargli niente, nel senso che meglio di Gesù non ha patito nessuno. E poi perché Gesù, morendo, per le ultime parole che ha detto, Padre, perdona loro che non sanno quello che fanno, che si ricollega al Salmo oltraggiato non rispondeva con oltraggi e sofferente non meditava vendetta, ma rimetteva la sua giusta causa a colui che giudica con giudizio, perché è un ulteriore insegnamento di ciò che dovremmo diventare noi, cioè misericordiosi e non giudici degli errori, dei torti che subiamo dai nostri fratelli. Ecco, non so se pensa che sia giusto, ecco, volevo un suo parere, grazie. Grazie Anna per questa sua lettura che ci porta a diretto contatto proprio con il mistero della passione e morte di Gesù evocato dal gesto della vedova. Sicuramente la tipologia di morte a cui Gesù è andato incontro per volere dell'uomo, di coloro che lo hanno messo a morte, ci dice una cosa fondamentalmente, che non c'è spazio dell'esperienza umana che non sia stato raggiunto da Dio. La morte in croce nel primo secolo era l'obbrobrioso supplizio, quello che persino gli storici romani dell'epoca indicavano come la cosa più vergognosa, più assurda, più difficile da accettare, più umiliante per l'uomo. Era il punto più basso a cui una persona poteva essere esposta. Pensate che nei primi due secoli noi oggi giriamo con la croce al collo, con le croci appesi alle pareti, non ci rendiamo conto di quanto, ci siamo così abituati che non ci rendiamo conto di quanto questa immagine suscitasse scandalo nel primo secolo. Nei primi secoli non c'erano immagini di croci in giro, i cristiani portavano dei piccoli sigilli che tenevano ben nascosti, proprio perché l'immagine della croce suscitava ribrezzo in chi la vedeva. Sarà solo dal terzo secolo in poi che cominciano a svilupparsi le croci gloriose, le croci gemmate, in relazione anche al cambiamento della posizione religiosa dei cristiani nell'impero, con tutte poi le tradizioni annesse. Abbiamo ricordato il 18 di agosto la memoria di Sant'Elena, la madre di Costantino, no? che avrebbe ritrovato, secondo la tradizione a Gerusalemme, la croce del Signore. Ecco, tutte queste cose si sviluppano dal terzo secolo in poi, prima le cose non stavano così, l'immagine della croce era l'obbrobrio per eccellenza, al Signore mancava solo una cosa, mancava l'esperienza della morte degli inferi. Ora il credo, quindi tutto il testo biblico ci dice che Gesù dopo aver patito ed essere morto viene deposto nel sepolcro, quindi il Signore abita anche il luogo più umiliante della nostra vita. Il luogo più umiliante della nostra vita è la tomba, perché non possiamo far più niente in quel momento. Ci depongono altri dicendo con quel gesto che la nostra vita terrena è finita e che oramai siamo destinati alla decomposizione. Gesù abita il sepolcro e non solo abita il sepolcro, ma abita gli inferi, scende ancora più in fondo. Scende negli inferi per liberare gli inferi da coloro che lo abitano dai tempi immemorabili, quindi dalla storia dei patriarchi in poi, infondendo nel regno delle ombre la luminosità della vita di cui lui è carico, e solo a questo punto risorge e sale al Padre. Tutto questo percorso, come giustamente ci diceva la nostra ascoltatrice, ci ribadisce un principio di fondo che deve aprire proprio il nostro cuore alla speranza, ed è il fatto che Gesù non ha lasciato nulla di inabitato. Tutti gli angoli dell'esperienza umana, anche quelli più oscuri, più umilianti, più obbrobriosi, sono stati da lui abitati e quindi riempiti di significato. non c'è spazio in cui Dio non possa cercare l'uomo, non c'è spazio di perdizione totale finché l'uomo vive. C'è sempre un lume di speranza, un barlume di speranza al quale l'uomo si può aggrappare cogliendo Dio che lo viene a cercare. Ecco, penso che questa immagine sia molto forte, di grande speranza per tutti noi. Grazie alla nostra ascoltatrice di Bologna. Grazie. Pronto, padre? Pronto, buonasera. Buonasera, padre Giacomo, sono Giovanna. Io ieri sera, pensando alla prima comunità cristiana, ho visto quel meraviglioso Don Zeno e stavo pensando, io ho una trave grande quanto una casa dentro il mio occhio, però dico, mi permetto di dire, tutta questa gente nel momento di difficoltà che stiamo attraversando, io ricordo anni fa che si battevano per il debito dell'Africa, di questi posti, ora siamo noi nel grande debito perché hanno mangiato cotta e cruda l'Italia, non abbiamo forse più religione, è un momento di oscurità, penso che con la grande speranza dello Spirito Santo che ci illumini e che la Madonnina venga a farci risorgere veramente di nuovo. Solo però non mi vorrei perdere, padre, dico, perché tutta questa gente che ha questi stipendi enormi, tutta questa, non voglio fare politica perché non ne capisco niente, noi poveri umani che abbiamo lo stipendio giusto dei 1.000 euro e facciamo lavori di grande responsabilità, perché c'è questo dislivello e non si ritorna appunto come Don Zeno, non come qualcosa di anacronistico, ma qualcosa che non sia una presa in giro, come queste grandi società che fanno la beneficenza e se la fanno perché si scaricano l'IVA, padre. Grazie signora Giovanna per il suo intervento che ci richiama in qualche modo anche alle accuse che Gesù faceva nel nostro testo nei confronti agli scribi, rivolgendosi agli scribi. Ora io non sono né esperto di politica né un economista, quindi non rispondo su questo piano, faccio solo notare una cosa, che l'insegnamento che traspare dal Vangelo è un insegnamento che mira da un lato a portare Dio all'interno della storia e là dove Dio viene accolto c'è sempre un riequilibrio sociale. Questo vale per il Nuovo Testamento, ma vale anche per le grandi voci critiche anticotestamentarie, pensiamo ai profeti, pensiamo a figure come quella di Amos. Se noi andiamo a leggere le sue voci contro gli squilibri di giustizia, gli squilibri economici, gli squilibri sociali del suo tempo, possiamo dire ma la voce di Amos andava bene nel VII secolo avanti Cristo, ma va benissimo anche adesso, cioè sono gli stessi capi di accusa, l'uomo spinto dalla ricerca del benessere personale e a volte egoistico, introduce nella storia degli squilibri che poi producono quello che è sotto i nostri occhi. Paragonarci alla situazione dell'Africa penso sia eccessivo, forse questo ci aiuta a capire di più quella situazione, per tanti anni erano solo delle immagini quelle che noi vedevamo, adesso che cominciano ad essere toccate le nostre tasche e anche le nostre sicurezze economiche, forse capiamo che il senso di solidarietà è ben altra cosa. Ecco, lei in questo contesto richiamava la figura di Zeno, Don Zeno Saltini. Zeno è uno dei grandi profeti che si inserisce nella storia in un momento delicato, portando il segno dello spirito all'interno della storia. Questa figura ci richiama una linea che caratterizza la storia cristiana, quella di lo Spirito non ci ha mai lasciato soli. In tutti i momenti critici della storia, in ogni svolta, noi incontriamo l'incarnarsi della risposta di Dio in figure, associazioni, realtà che diventano profetiche. Pensate anche solo al periodo del 1100, no? Un periodo molto difficile dal punto di vista sociale, economico e religioso. Chi suscita lo spirito in quel periodo? Suscita Francesco, suscita Domenico, due grandi santi che con le figure che li seguiranno riusciranno a portare un lievito all'interno della storia, inedito, un lievito che sana, lenisce le storture di giustizia sociale e economica del tempo. Ma se andiamo ancora più indietro nella storia, nel momento in cui il cristianesimo si sente trionfare dopo un lungo periodo di persecuzioni e quindi fa proprio la struttura dell'impero subito dopo Costantino, con Giustiniano, questo splendore della Chiesa che comincia ad arricchirsi. Cosa suscita lo spirito in quel periodo? Suscita le grandi esperienze cenobitiche ed eremitiche nel deserto, dove uomini e donne con il loro stile di vita povero, sobrio, austero, ricordano a tutto il resto della cristianità di fare attenzione perché il pericolo che le persecuzioni scongiuravano lasciando l'uomo nella povertà, ora rischia di non essere nemmeno visto, creando quelle storture sociali, di giustizia sociale, economica che erano all'opera. Ora, ieri come oggi, lo spirito continua a suscitare tutto questo. Si tratta di saper vedere queste cose, saper vedere come lo spirito agisce attorno e dentro di noi. Certo, la situazione che noi stiamo vivendo da un punto di vista economico e sociale impone una grossa riflessione sui nostri stili di vita e sui principi che reggono la convivenza umana. Lasciare in mano alle banche la decisione dei principi di convivenza umana è molto rischioso, anche se per tanti anni tutti, in un modo o nell'altro, hanno contribuito a costruire quello che è il nostro mondo oggi. La ringrazio, Giovanna, per il suo intervento. Buonasera, padre. Buonasera, con chi parlo? Parla con Maria di Trieste. Benissimo, signora. Io sono Maria di Trieste. Mi dica. E vorrei un chiarimento, per piacere. Perché adesso si dice uomini di buona volontà, no? Sì. No, adesso si dice quelli che amano. Quello che il Signore ama. Però una volta si diceva uomini di buona volontà. Che differenza passa, per piacere? Certo. Grazie, signora Maria, per la sua domanda. Che differenza c'è tra gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace agli uomini di buona volontà e invece gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace agli uomini che egli ama? Cambia, cara signora, il punto di vista. Quando noi abbiamo davanti un bicchiere con dentro dell'acqua, uno può dire che il bicchiere è mezzo pieno e un altro può dire che il bicchiere è mezzo vuoto. Ugualmente in questa espressione, pace agli uomini di buona volontà mette in rilievo la disposizione umana, pace agli uomini che Dio ama mette in rilievo ciò che permette poi agli uomini di essere di buona volontà. Ecco perché è stata cambiata per certi aspetti questa traduzione. Ciò che conta non è ciò che l'uomo fa, ma la disposizione che spinge l'uomo a fare. Se io agisco solo in nome della mia volontà, la mia volontà prima o poi mi fa lo sgambetto e mi lascia a piedi, perché finché sto bene, finché sono contento, ho tutta la buona volontà di questo mondo, ma quando qualcuno comincia a pestarmi i piedi, ho qualche malattia, qualcosa va storto, la mia buona volontà fa cilecca e viene meno. Diversa invece è la disposizione che sta nel sottofondo. Se io ho una forte percezione dell'amore di Dio nei miei confronti, non sono di buona volontà solo il venerdì, il sabato e la domenica, ma anche il lunedì e il martedì, cioè è sostenuto dall'azione, dalla misericordia di Dio, Tale percezione dell'amore di Dio è così grande che mi permette di donare anche quando le cose sono contro di me. L'emblema di tutto questo è Cristo stesso. Gesù, avendo amato i suoi che erano nel mondo, ci dice Giovanni, li amò sino alla fine, sino al compimento. E quell'amarli sino alla fine è amarli nel momento in cui tutto è contro di lui. Amarli nel momento in cui tutto si rivolta contro di lui. Sulla croce, stando alla versione di Marco, Gesù non è che sente attorno a sé molte voci che gli portano consolazione e fiducia. Non ne sente nessuna. E mi permetto di aggiungere, nel Vangelo di Marco, preciso, non sente nemmeno quella del Padre. Però è così convinto del profondo amore che il Padre ha dentro di lui, per lui, del profondo amore con cui Dio lo ama, che tutto questo si traduce in dono, che la sua buona volontà, cioè la sua adesione alla volontà del Padre, non viene meno. Ecco, quindi sta nella prospettiva da cui guardiamo la cosa. La ringrazio comunque per questa domanda, perché si pone in sintonia anche con le cose che ci siamo detti stasera. Grazie, signora Maria. Buonasera, Don Giacomo. Buonasera, con chi parlo? Sono Mario da Savona. Mi dica, Mario. Complimenti per la grande conoscenza che ha. E io ho tre domande, Don Giacomo, poi l'ascolto per radio. Sì. La prima è, come diceva poco fa, quando Davide diceva il Signore ha detto al mio Signore, che Gesù ha detto, perché dite che io sono figlio di Davide, che ha un significato. Io giro la domanda, quando Maria nel Magnifico disse il Signore, l'anima mia magnifica il Signore, lo spirito mio esulta in Dio mio Salvatore. E la domanda è questa, come, che poi come sappiamo nel 431 al concilio di Efeso, questa donna viene chiamata madre di Dio? Io lo ritengo un errore gravissimo. E poi la seconda, la sempre Vergine Maria, quando nell'Evangelo di Matteo capitolo 1 verso 25 la Bibbia ci dice che Giuseppe non ebbe rapporti con Maria finché non ebbe partorito Gesù. E la terza è su quello che diceva la sorella prima, e poi essendo anche tanti ascoltatori di Radio Maria che sono senza lavoro e via di seguito, che secondo il mio punto di vista questa crisi si potrebbe risolvere in pochissimo tempo, basta che i politici si togliano dai lavori pubblici, che a noi cittadini un lavoro che ci dovrebbe costare 10 euro ce lo fanno costare 10 miliardi. Signor Mario, rispondo alle sue domande, tralascio ovviamente l'ultima perché la nostra puntata non è dedicata a questioni politiche o economiche e non sono la persona più competente per farlo, mentre riprendo le sue prime due domande che toccano degli argomenti molto delicati e molto importanti della nostra fede. Cominciamo dalla domanda sul Magnificat. Nel Magnificat Maria si rivolge a Dio chiamando, dicendo appunto, l'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Lei dice com'è che la Chiesa poi ha associato Maria al titolo di Madre di Dio, e lei faceva riferimento al Concilio di Efeso. Allora, facciamo una premessa. Prima di tutto, il Concilio di Efeso non è che spunta da un giorno all'altro, per cui da il Concilio di Efeso nel 431 decide di dare una definizione che così piove dal cielo. No, la definizione di Maria Madre di Dio ha profonde radici storiche che si sviluppano molto molto prima. Addirittura è la prima definizione che Maria riceve nella storia della Chiesa e quella che ci trova in perfetta sintonia tutto il mondo dell'ortodossia con il mondo del cattolicesimo. Ovviamente questo è legato al mistero che Maria porta in grembo. Il fatto che Maria porti in grembo il Figlio di Dio, l'incarnazione stessa di Dio, Maria diventa l'arca dell'alleanza. L'arca dell'alleanza, il terreno in cui Dio assume su di sé l'umanità. chiamare Maria madre di Dio non è un oltraggio fatto a Dio, e nemmeno un titolo puramente di merito onorifico dato a Maria, è invece un grande onore fatto a Dio, perché gli riconosce la logica per eccellenza che lui ha vissuto, che è la logica dell'incarnazione, e vede in Maria il principio della nostra umanità, verso cui anche si muove la nostra umanità. La nostra umanità si muove nell'essere tutto, tutta la nostra realtà in Dio. Quindi il titolo di Maria Madre di Dio non è un titolo fuori posto, certo, è un titolo che ha generato dibattito nel passato, genera dibattito tuttora oggi, ma colto nella giusta prospettiva, che è un pochino quella che ho messo in evidenza, esalta il mistero grande dell'incarnazione di Dio, quindi la sua kenosi, pur di raggiungere l'uomo. Secondo aspetto, seconda domanda provocatoria e delicata, è la domanda che riguarda la traduzione del testo matteano che riguarda la nascita di Gesù, dove nel testo si dice appunto che Maria non si unì a Giuseppe fino alla nascita di Gesù. Ovviamente il testo in questione ha come obiettivo quello di sottolineare la verginità di Maria, tra l'altro esplicitamente menzionata all'interno del testo, verginità in relazione alla nascita di Gesù. Su questo versetto le correnti delle confessioni cristiane si sono divise tra di loro, per cui c'è la corrente protestante che interpreta questo versetto dicendo che Maria poi ha avuto altri figli che sarebbero quelli menzionati come fratelli e sorelle di Gesù all'interno del Vangelo, mentre la tradizione cattolica, la tradizione ortodossa, leggono il testo in un altro modo, dicendo che la verginità che ha accompagnato la vita di Maria e Giuseppe prima della nascita di Gesù continua anche dopo, e di fatto il testo biblico non contraddice questa traduzione, e il fatto che la tradizione la comprovi con l'adesione a questo tipo di lettura di non solo una confessione cristiana, ma più confessioni cristiane, sostiene, cioè unisce al testo biblico la riflessione della tradizione. Resta il fatto che il testo lascia un punto aperto. Teniamo però presente quello che noi intendiamo per fede cristiana. La fede cristiana non è mai una lettura del singolo sulla parola di Dio, cioè il singolo si misura sempre con una comunità credente che lungo i secoli matura la propria percezione della fede attraverso lo studio, attraverso la preghiera, attraverso il confronto. La nostra comunità di fede ci ha lasciato un modo di intendere la figura di Maria e di Giuseppe, che è diversa da quella che in merito a questo punto dice la confessione protestante, per cui noi riteniamo che la verginità di Maria abbia preceduto, caratterizzato e seguito il parto di Gesù, e quindi che Giuseppe e Maria non hanno avuto rapporti nemmeno dopo la morte di Gesù. Questo non toglie nulla alla bella relazione di comunione, di condivisione che c'era tra Maria e Giuseppe, ma dice che la pienezza del mistero che era stato loro affidato, la pienezza del mistero, cioè Gesù stesso, riempiva a tal punto la loro vita da non aver bisogno di altro se non di quella comunione che caratterizza la relazione tra uomo e donna nella figura di Maria e Giuseppe, così come viene descritta in questa pagina della Bibbia. La ringrazio, Mario di Savona, per la sua domanda. Grazie. Pronto, buonasera, con chi parlo? Pronto, buonasera, sono Maria Grazia. Dica. Niente, io apprezzo molto quello che lei ha detto. Mi è dispiaciuta la cosa che dei rapporti di Giuseppe con la Madonna, no, cioè Dio non si mischia così, cioè... Ecco, tutto quello che volevo dire era questo. Lui pure casto e pure casto anche Maria con Giuseppe, tutto qua. Allora, signora, signora Maria Grazia, la ringrazio della sua precisazione, si è ascoltato bene la risposta, ho dato appunto una risposta che andava in questa linea, mi permetto però solo una precisazione riguardo al suo intervento. Dire no, Dio non si mischia in questo modo può essere rischioso. Il nostro Dio non è un Dio che abita i cieli lontano dall'umanità, è un Dio che si è fatto carne, è un Dio che ha abitato la storia, non ha avuto paura, trasfigurandolo, di abitare anche situazioni, di incontrare anche situazioni di peccato, trasfigurandole, ma le ha abitate. Attenzione, una visione di un Dio troppo purista che abita i cieli. Penso che rischieremmo di non avere una visione che sia totalmente in sintonia con il cristianesimo. Seconda cosa, seconda precisazione. Attenzione, il rapporto tra un uomo e una donna nell'ambito del matrimonio, nelle condizioni che sono richieste da una vita autentica e una relazione autentica, non è qualcosa di sporco. Noi rischiamo di venire da una tradizione che ha portato a volte a percepire il rapporto tra l'uomo e la donna come qualche cosa di, il rapporto sessuale intendo tra l'uomo e la donna come qualche cosa di non puro, frammischiato solamente all'elemento dell'egoismo. Attenzione a una lettura di questo tipo. Non dimentichiamo che in tutta la tradizione biblica, compresa quella neotestamentaria, il rapporto, l'unione sponsale tra un uomo e una donna era qualcosa che rientrava tra le priorità del disegno biblico. Ovviamente è talmente prioritario, è talmente delicato questa dimensione che bisogna vigilare su tutti quegli elementi che possono infiltrarsi in una cosa così delicata, che possono essere appunto gli elementi di egoismo, di dominio, di potere, di ricerca del piacere, che sono tutti elementi che possono in qualche modo inficiare il rapporto, ma non confondiamo questo con un giudizio negativo su un momento sponsale che caratterizza la vita degli sposi e che è un momento importantissimo e delicato, che rende anche le famiglie equilibrate nel rapporto di coppia, nel rapporto tra genitori e figli e così via. Quindi la ringrazio per il suo intervento e continuiamo comunque a riflettere su queste tematiche. Tra l'altro ci sono proprio alcune trasmissioni che Radio Maria fa proprio dedicate anche a queste tematiche familiari che vengono sempre toccate con grande tatto e delicatezza e a mio avviso anche con grande sapienza. Grazie. Allora mi dicono dalla regia che la telefonata della nostra Maria Grazia era l'ultima, quindi ringrazio tutti coloro che sono intervenuti, Francesca, Christian, Anna, Giovanna, Maria, Mario, ringrazio tutti per le vostre domande che ci hanno permesso questo approfondimento e questa sera chiedo un piccolo dono a voi cari ascoltatori. Oggi sono 98 anni che la mia congregazione è nata, 98 anni dalla fondazione. La famiglia Paolina è stata fondata da Don Alberione nel 1914. Prima di addormentarvi, chi vuole stasera, se può, affidarci al nostro Signore perché la nostra missione nella Chiesa possa sempre rispondere a quello che il Signore ci ha dato. E su tutti voi la benedizione di Dio, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Ci risentiamo in settembre. Un caro saluto a tutti. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.